Prima edizione. Eccoci pronti con i quotidiani che trovate in edicola. Allora, questa mattina i titoli di apertura, più o meno sugli stessi temi, ma sono abbastanza diversi, quindi cioè, di che divertirsi. Come sempre solo alcuni, quest'ora gli altri, la rassegna stampa di Alessandro Milan alle 7:20, ampio spazio anche per altri quotidiani e per le pagine interne. Noi facciamo comunque alle 6:15 minuti già una carrellata di quelli che sono i temi che aprono oggi i quotidiani. Allora, cominciamo dal Corriere della Sera. Terrore all'Agenzia delle Entrate, sequestra un dipendente, poi un carabiniere lo convince. Bergamo, un imprenditore con un fucile e due pistole, tra la gente c'è chi dice ha fatto bene. Cos'è successo? È successo ieri appunto nel Bergamasco, all'Agenzia delle Entrate di Romano di Lombardia, si è barricato, è entrato nella sede, ha fatto uscire, per la verità l'abbiamo raccontato anche in GR24, chi c'era dentro tranne un impiegato, e poi ci sono volute 6 ore perché si arrendesse ai carabinieri, appunto, che ora stanno facendo le verifiche su quello che è accaduto. Speranze negate, scrive oggi Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Tanti urlatori, ma è saltata ogni solidarietà. Episodi come quello di ieri ci devono spingere a riflettere, leggiamo Dario Di Vico, ancor più sulle esplosive contraddizioni del nostro tempo. E la conclusione è questa: se le classi dirigenti diffuse sul territorio, nelle organizzazioni, si dimettono dalle loro responsabilità e accusa le molte polemiche, ma non i fatti, senza fatti, Dario Di Vico, il messaggio che arriva a tanti uomini soli di questo nostro tempo è solo un assordante rumore. Ci vedono affaccendati in altro, ci sentono urlare, loro finiscono per rimanere totalmente in ostaggio della propria disperazione. Dovremo evitarlo e per cominciare a farlo non è mai troppo tardi. Così Dario Di Vico, l'impiegato coraggioso, 6 ore sotto tiro, il racconto di quello che è accaduto all'interno. La Stampa, anche qui l'immagine campeggia, si barrica contro il fisco, ore di paura nel Bergamasco, poi la resa, sono senza soldi. Massimo Gramellini scriva: emergenza nazionale, prima si impiccavano i cornicioni delle loro fabbriche e scivolavano nelle pagine di cronaca nera, mentre al telefono il ministro domandava incredulo, sicuro che dietro non ci sia un'altra ragione, allora hanno cominciato a darsi fuoco per strada pur di lemosinare l'attenzione di una politica ripiegata sul proprio grasso e di un governo troppo concentrato sui numeri per riuscire a comprendere le persone. Ma da ieri il dramma "io non ce la faccio più" esplora un nuovo abisso, l'irruzione di un disperato nell'Agenzia delle Entrate con le armi in pugno. Così l'emergenza nazionale, Massimo Gramellini sulla Stampa. A fianco sulla Stampa però c'è anche l'altra notizia che apre altri quotidiani di questa mattina, perché nel frattempo salta l'accordo per tagliare i soldi ai partiti, se ne riparlerà solo dopo le elezioni. Che è successo che è slittata lunedì la presentazione in commissione del disegno di legge antidoto della politica, come è stato più volte definito, vale a dire quello sulla riduzione dei finanziamenti pubblici ai partiti. Dietro il rinvio, leggiamo dalla Stampa, l'intesa saltata da PDL, PD e Terzo Polo su cosa e quando tagliare. Attacca la Lega, fanno slittare la legge per paura delle elezioni. E aggiungiamo sempre su questo fronte, sempre dalla Stampa, che intanto sul sito del governo c'è, ve lo dicevamo anche noi, il modulo per denunciare gli sprechi. In un giorno 40.000 proposte, boom di suggerimenti, arriva una mail al secondo. Il Sole 24 Ore anche qui guarda la crisi e gli atti disperati, però in un quadro più ampio. Il Sole 24 Ore di questa mattina, vale a dire un quadro più europeo. Tra proteste e disperazione l'Europa fa i conti con la crisi in Italia, Grecia e Spagna, scrive il Sole 24 Ore. Allora eccola: in Italia l'uomo barricato nell'Agenzia delle Entrate, in Grecia le manifestazioni e le proteste a 2 giorni dalle elezioni che vedono in ascesa le frange anti-europee, in Spagna la riunione della BCE in una Barcellona blindata dove si sono tenute manifestazioni contro l'aumento delle tasse universitarie. E allora sul Sole 24 Ore di quest'oggi ci ricorda che a parlare ieri è stato anche il presidente della BCE Draghi: crescita la priorità europea, in Italia e Spagna sulla strada giusta, ma è meglio tagliare le spese che alzare le tasse, così dice Draghi. Allora ecco, sempre sul Sole 24 Ore, a proposito invece di tasse, sulle tasse la riscossione, sale la tensione, ancora la rivolta dei sindacati sindaci sull'IMU, ma il governo apre, scrive oggi il Sole 24 Ore. Dal 2013 l'IMU potrebbe divenire una tassa più comunale, così oggi il Sole 24 Ore. Le altre aperture, vi ho detto, oggi i temi sono così, si allacciano l'un l'altro, i quotidiani fanno un po' delle scelte diverse, almeno per come proporre le notizie. Allora il Messaggero apre invece sulla questione partiti, slitta la riforma, rinvio per le amministrative, Napolitano dice serve una rigenerazione della politica, si tratta sui finanziamenti e intanto sui provvedimenti invece anticorruzione, PDL verso il no, slitta ancora una volta l'intesa, perché l'intesa non c'è, la legge sul finanziamento ai partiti. Intanto il PDL fa sapere che non presenterà emendamenti al DDL anticorruzione, riservandosi di votare contro, così il Messaggero, che la notizia invece dell'uomo barricato con ostaggi nell'Agenzia delle Entrate in Lombardia ce l'ha a centro pagina. La Repubblica. IMU, eccola qui, la Repubblica ne sta parlando parecchio in questi giorni, torna ad aprire questa mattina ancora sull'IMU e fa un po' i conti al di là delle proteste. Ecco quanto ci costerà, scrive la Repubblica. E secondo il Tesoro, il 70% delle famiglie pagheranno in media 200 euro. Esenti, allora il 70% pagheranno 200 euro, leggiamo dalla Repubblica, il 30% degli altri dovrebbero essere esenti, questi almeno i conti del Tesoro. Il presidente dell'ANCI, dell'Associazione Comuni, ve l'avevamo fatto sentire ieri mattina, noi a Radio 24 del Rio, dice però intanto basta con Equitalia, noi comuni ci doteremo di un'altra società. E poi ancora anche qui l'intervento del presidente della BCE Draghi, che dice stop alle tasse, la crescita è a rischio. E il ministro dei rapporti con il Parlamento Giarda, che ancora dice sgravi fiscali arriveranno grazie alla spending review. E anche qui l'immagine a centropagina è quella dell'uomo che dicevamo ieri si è barricato nel Bergamasco, troppi debiti, si barrica con gli ostaggi, e il fisco e il disonore è il commento che trovate a firma di Michele Serra sulla Repubblica. Guai a chi soffia sul fuoco, ma qualcosa di sbagliato e forse di guasto tra i cittadini e il fisco deve pur esserci, se negli ultimi mesi Equitalia è diventata un nemico da colpire o addirittura una trincea dove immolarsi. I commenti sono molteplici, li troverete, li leggeremo anche magari più avanti, li troverete questa mattina sui quotidiani. Altre notizie, allora la politica, le tasse, la crisi come vedete a dominare, però ci sono anche le inchieste. Allora, restando sulla Repubblica, centropagina c'è l'inchiesta del GIP su Lusi, l'ex tesoriere della Margherita. Lusi va arrestato, ha rubato 28 milioni, così la Repubblica. Il GIP di Roma ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione all'arresto. 1.300.000 euro furono spesi per l'acquisto di un attico a Roma, avrebbe rubato in tutto circa 28 milioni. E così dicevamo la Repubblica, stessa scelta un po' anche per gli altri, chiesto l'arresto per Lusi, anche qui a centropagina per il Messaggero. Se si parla della casa sulla Repubblica, l'accento invece sul Messaggero viene posto sul suo matrimonio. Per il matrimonio 30.000 euro, alla fine è stata la moglie ad incastrare il senatore Luisi Lugisi, aggiungendo all'inchiesta della Procura di Roma il tassello mancante, così sul Messaggero. Altre notizie dalla Repubblica, altri casi invece, l'omertà non al sud, bensì in Lombardia, a Milano, la Milano dell'omertà, qui non ci sono testimoni, così scrive Piero Colaprico facendo un punto su diverse inchieste, la Milano senza testimoni. E poi ancora qualche segnalazione dal Messaggero, le condizioni di Giulio Andreotti, crisi cardiaca, Andreotti ricoverato nella stanza 17, dice non sono superstizioso. Il Corriere della Sera, fondo pagina, in un anno 29 esami, ecco la laurea veloce di Renzo Bossi, la presa in Albania. Le imprese del Trota, così ironicamente titola il Corriere della Sera. 29 esami in un anno, laurea veloce, sicuramente davvero molto veloce. E poi il racconto invece di Delio Rossi, la follia sulla panchia della Fiorentina, l'ira funesta del timido signor Rossi, scrive il Corriere della Sera, il pugno pedagogico dell'allenatore e poi le scuse, è il racconto di una nevrosi, così scrive il Corriere della Sera. Però come sempre vogliamo anche parlare d'altro e allora voltiamo pagina. I quotidiani torneranno più tardi qui a Radio 24 perché la crisi ha provocato molte conseguenze. Una di queste è anche il cambiamento delle rotte di migrazione. Ne abbiamo parlato lunedì a proposito dell'Italia, dove alcune nazionalità di stranieri sono in partenza proprio perché non ci sono più le speranze di qualche anno fa, ma ad essere cambiate sono più in generale anche le tendenze mondiali. Allora ce le racconta Cristina Carpinelli. Viaggiano all'interno del loro continente di origine e si stanno muovendo di più le donne degli uomini. Stanno anche aumentando i minori che viaggiano da soli. E la fotografia delle migrazioni nel mondo, fornita dopo anni di studi dalla professoressa Katrin Widold-Wenden, autrice dell'Atlante Mondiale delle Migrazioni. Professoressa, che tipo di migrazioni si sta definendo in questi ultimi anni? La prima cosa sarebbe, a dispetto della globalizzazione, la tendenza alla regionalizzazione anche dei flussi, perché adesso, ad esempio, per il continente americano, la maggior parte dei migranti dentro sono americani. Per l'Europa la maggior parte sono migranti dalla riva sud del Mediterraneo, per il Golfo la maggior parte sono arabi. Dunque questa tendenza alla regionalizzazione dei flussi si sviluppa mentre c'è una globalizzazione dei flussi. Guardando, diciamo, soltanto l'Europa, i movimenti come sono? Cioè l'Italia, per esempio, ha tanta migrazione verso altri paesi d'Europa? Sì. La migrazione dentro l'Europa è abbastanza debole paragonata alla migrazione che viene da fuori, specialmente dal sud. E i paesi europei, quando hanno definito le loro politiche migratorie, non pensavano che ci sarebbe tanta migrazione dal sud, perché pensavano che con la crisi degli anni 70 e 73 la migrazione dal sud non sarebbe importante come era prima nel periodo dell'industrializzazione. Dunque c'è uno sbaglio nella previsione dei flussi fatta dell'Europa che spiega in parte il calo tra le politiche migratorie e la tendenza dei flussi verso l'Europa. C'è un identikit, diciamo, delle persone che decidono di abbandonare il loro paese per andare in un altro paese? Cioè sono giovani? Sono giovani, sempre più donne, anche donne. 51% dei flussi sono donne, anche i giovani anche minori non accompagnati che vengono da soli, anche le badanti, è una tendenza importante che vediamo adesso con l'invecchiamento della popolazione del nord, corrispondono più alla migrazione sola di lavoro industriale agricola degli anni 1960-70. Prima edizione. Con le inchieste di Radio 24 e l'appuntamento in vista delle prossime elezioni. Italia in controluce. Buona mattina a tutti e ben svegliati da Radio 24 e da Daniele Biacchesi. Questa è Italia in controluce. È l'ultima puntata dell'inchiesta di Italia in controluce sulle amministrative che si svolgono il 6 e 7 maggio. Abbiamo parlato delle piccole città, abbiamo parlato delle grandi città, dei partiti al voto, del fenomeno delle liste civiche. Oggi con le reportage di Maria Luisa Pezzali siamo ancora sulle piccole città, quelle che porteranno certamente il maggior numero di elettori alle urne. Mai come quest'anno anche le città minori coinvolte nell'ondata elettorale chiamata a rinnovare molte poltrone da primo cittadino sono sotto i riflettori. fanno meno notizia rispetto alle sfide di Palermo, Verona, Genova o L'Aquila, ma sono un banco di prova, un test politico per i nuovi equilibri che vanno formandosi dopo gli scandali e gli annunci di rinnovamento dei leader, alle prese con un'insofferenza verso i partiti mai vista prima. Ma alla lista c'è Parma, dove la giunta di centrodestra, guidata da Pietro Vignali, è stata travolta dallo scandalo Tangenti fino alle dimissioni. Tra i 10 candidati sindaco con 20 liste collegate, la sfida è tutta tra Vincenzo Bernazzoli del PD, attuale presidente della provincia, tiene insieme un raggruppamento che va dai Finiani ai comunisti italiani, e l'ex sindaco Elvio Ubaldi, lista civica sostenuta anche dall'UDC, colui che nel 1998 con il movimento Civiltà Parmigiana, sostenuto da Forza Italia, aveva strappato la città al centro-sinistra. Dopo 14 anni di giunte legate al centro-destra, Bernazzoli crede nella svolta e nella vittoria al primo turno. Io confido che si possa recuperare presto il danno fatto e si possa mettere la città nelle condizioni di correre. Dopo 2 mandati fu Ubaldi a indicare come proprio successore Vignali, una scelta che poi rinnegò, ma che ora potrebbe pagare in termini di consenso. È vero che io ho chiamato Pietro Vignali, ho preso atto che vi era in città una larga parte di persone che chiedevano che Vignali diventasse sindaco. Io ho accettato quella proposta, però poi io subito dopo mi sono accorto dell'imbroglio che si era combinato e sono andato per conto mio. In Sicilia non c'è solo il caso Palermo. Sull'isola sono 147 i comuni in cui si rinnoveranno giunte e consigli comunali. Tra i capoluoghi, oltre alla corsa per Palazzo delle Aquile, c'è anche quella di Agrigento e Trapani. Anche qui spicca la rottura tra PD e Italia dei Valori. Altra analogia con Palermo, il fatto che anche a Trapani non ci sia traccia dell'alleanza di governo in regione. L'MPA di Lombardo, il Partito Democratico e i Finiani arrivano alle urne in ordine sparso. A Parma, 8 a Trapani. Il moltiplicarsi degli aspiranti primi cittadini è un tratto comune a queste amministrative nei centri grossi e piccoli. Mai così tanti, 16, anche a Como, dove il centrodestra, uscente con la giunta di Stefano Bruni, arriva al voto spaccato. A Como fa notizia anche la candidatura di un campione del mondo, Pietro Vierkowood. Avrei potuto scegliere di andare da una parte o dall'altra, io ho detto di no. Noi vogliamo esclusivamente dare, non prendere. Alla città. Avete ascoltato Italia in controluce, torniamo alle 13.30 su Radio 24 con Scuola in controluce di Piera Cesce. E con questo abbiamo chiuso, vi dico, questa settimana il spazio di Italia in controluce dedicato alle prossime amministrative. Si vota domenica, si vota lunedì, noi ne parleremo martedì mattina per raccontarvi come sarà andata, e ovviamente poi lunedì dal pomeriggio gli speciali, lunghi speciali di Radio 24 sull'esito delle amministrative. Voltiamo invece pagina perché vogliamo raccontarvi questa mattina anche di un nord-est che nella crisi prova a ripartire dall'economia verde. In questi giorni sono molti gli appuntamenti per quello che è ormai il tradizionale città e imprese, con molte curiosità, con molti spunti. Io saluto Antonio Maconi, direttore programma Festival Città Impresa, buongiorno. Buongiorno a tutti, salve a lei. Voi preparate la notte verde, dopo la notte bianca, perché cos'è la notte verde? Ma è molto simile nel format alla notte bianca, cioè sono eventi di intrattenimento, di disseminazione di informazione, di promozione, però il tema è diverso. Il tema è quello della green economy, della sostenibilità ambientale, è un tema su cui il nord-est tutto, il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno un primato e un'eccellenza che noi vogliamo promuovere. Sono 20 diversi territori del nord-est che partecipano sabato 5 maggio a una giornata e una nottata interamente dedicati alla sostenibilità. Cosa ci sarà? Molti appuntamenti, stiamo parlando di oltre 50 eventi che vanno dalle 9 della mattina addirittura alle 5 del mattino successivo, con concerti, prove appunto di macchine elettriche, convegni, e in particolar modo mi preme appunto sottolineare la partecipazione e l'adesione del Ministero dell'Ambiente, con la presenza fisica del Ministro Clini, che parteciperà ad una serie di eventi, farà una sorta di mini tour del nord-est. Una lunga notte, insomma. È veramente una lunga giornata, una lunga notte, esatto. È una lunga notte. Lei parlava del nord-est, che ormai davvero sembra candidarsi a macro-regione, possiamo chiamarla così, della tecnologia verde, ma anche la macro-regione, ad esempio, nella raccolta differenziata dei rifiuti. Il Veneto, prima in Italia col 65%, e poi a seguire appunto Friuli-Venezia Giulia e Alto Adige. C'è anche qualcuno che potrebbe magari venire ad imparare qualcosa da voi? Ma è proprio quello l'obiettivo, un evento di ovviamente divertimento, ma soprattutto di promozione di queste eccellenze. Si comincia allora domani, poi ci sarà una lunga notte fino a domenica, ma chi volesse curiosare già oggi nelle vostre iniziative? Beh, da non perdere assolutamente all'Antiruggine di Castelfranco Veneto e in streaming live su telecomitalia.com Nuovi Italians Crescono, 10 artigiani che hanno fatto della propria professione un nuovo lavoro, nel senso hanno coniugato innovazione e artigianato, presenteranno in 7 minuti la propria attività e poi interagiranno con il pubblico. Beh, insomma, 7 minuti davvero velocissimi. Allora, io però le faccio ricordare anche che ci siamo anche noi, c'è anche Radio 24, perché la Notte Verde la vivremo con voi con uno speciale di Laura Bettini. Esattamente. E allora ovviamente l'appuntamento per la prossima notte è con Laura Bettini. Grazie nel frattempo a Antonio Maconi, direttore programma Festival Città Impresa. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Questo accadrà la prossima notte. Cosa è accaduto invece la notte scorsa? Torniamo alla strettissima attualità, perché ieri sera si è conclusa la vicenda nel Bergamasco dell'uomo che si è barricato, dell'imprenditore che si è barricato nell'Agenzia delle Entrate. Voltiamo decisamente pagina. Allora, cosa è successo, cosa succederà nelle prossime ore? Lo chiediamo a Katia Caramelli. Sì, buongiorno. È stato interrogato per ore dal PM Franco Bettini Luigi Martinelli, l'ex imprenditore di Covo, che ieri, Anna, come ricordavi tu, ha fatto irruzione nella sede dell'Agenzia delle Entrate a Romano di Lombardia, che è un paese della Bergamasca, e ha sequestrato per ore un ostaggio. Intorno alle 21 di ieri sera è stato un brigadiere dei carabinieri a convincerlo ad arrendersi e a liberare l'impiegato, Carmine Mormandi, di 56 anni, sotto shock ma in buone condizioni. Che cosa era successo? Tutto era cominciato intorno alle 14.30. Martinelli, che sostiene di essere stato costretto a chiudere l'impresa di pulizia a causa delle alte tasse, armato con un fucile a pompa, due pistole, ha fatto irruzione nell'ufficio del paese e tra le mani una copertina con scritto "non ho più soldi". All'interno dell'ufficio c'erano allora 17 persone. Martinelli ha sparato dei colpi al soffitto, ha fatto uscire i clienti, ha trattenuto per un'ora tutti i dipendenti, poi li ha lasciati andare e ha trattenuto solo l'impiegato Mormandi, scelto per caso. È cominciata allora una lunga trattativa con i carabinieri, e quando intorno alle 21 Martinelli è uscito, manette ai polsi, per salire sull'auto dei carabinieri, la gente in strada lo ha anche applaudito. Vi ricordiamo peraltro che oggi a Bologna si terrà la Marcia delle Vedove, che è una manifestazione organizzata dalle mogli degli imprenditori suicidatisi per la crisi. Secondo uno studio della CGA, dall'inizio dell'anno sono già 32 persone. E per il momento, Anna, è tutto. Grazie Katia Caramelli, torneremo naturalmente con te a parlarne anche nelle prossime edizioni di GR24. La questione che ci sta dietro è sempre quella delle tasse, e allora c'è una tassa che in queste ore ancora sta facendo parecchia discutere, ed è l'IMU. Torniamo a parlare anche di questo. L'IMU è stata presa come cosa ineluttabile, ma non è così, non so come va a finire, ma non si potrebbe tentare nell'interesse del paese di togliere toglierla sulla prima casa. Parole queste di Giulio Tremonti, ha parlato ieri sera a Piazza Pulita su La 7. Nel frattempo, questa mattina è la Repubblica a pubblicare le tabelle che ha diffuso ieri sera il Tesoro, quanto ci costerà l'IMU. Le pubblica le tabelle la Repubblica e fa anche un po' di conti, e ne viene fuori, almeno stando alle tabelle del Tesoro pubblicate dalla Repubblica, che sarà comunque più bassa, ovviamente con l'aliquota che resti al 4 per mille, più bassa della vecchia ICI. In media, secondo le tabelle del Tesoro, le famiglie italiane pagheranno 200 euro e detrazioni di 50 euro per ogni figlio a carico. Così almeno sono le tabelle diffuse dal Tesoro e pubblicate questa mattina dalla Repubblica. Ma per andare ancora più a fondo su questa questione, sul perché la rivolta dei sindaci, Anna Marino ha sentito per noi il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Ma io penso che l'IMU, così come è stata strutturata dal decreto Salvitalia approvato dal Parlamento, dalla maggioranza parlamentare, è sbagliata, ingiusta, ingiustificata e ha anche evidenti profili di incostituzionalità, perché prevede che un'imposta municipale, così come ha deciso la Costituzione che ci fosse, comportasse che una parte dei proventi di questo tributo andassero al governo. Preso atto di questo dato di fatto, io credo che bisogna fare di tutto, impegnarsi perché il governo cambi rotta, cambi strada, anche perché strangolare i comuni significa strangolare coloro che danno una risposta ai bisogni primari dei cittadini. Come fare per ridurre l'impatto dell'IMU o proporre un'alternativa? L'alternativa è molto chiara, che se il governo vuole, ha necessità di avere a propria disposizione, il Parlamento di avere a propria disposizione quelle somme per sanare il Paese, faccia una tassa autonoma, che può essere tassa di scopo, che può essere un altro tipo di tassa, ce ne sono purtroppo tantissime, e ci metta la faccia e non faccia sì che invece i sindaci diventino gli esattori del governo. Prima edizione. 6:47 minuti, 30 secondi, si avvicina un fine settimana, siamo a venerdì, un fine settimana davvero intenso sul fronte elettorale in Europa. Perché? Perché si vota in Francia, ma si vota anche in Germania, si vota anche in Italia, si vota anche in Grecia. Allora sarà un test davvero importante. E allora un piccolo flash e cominciamo subito a capire che succede nel dibattito francese. E allora, dopo il dibattito in televisione con Nicolas Sarkozy, François Hollande guadagna un sostegno importante. Allora, vediamo se riusciamo a farvelo sentire. Il voto di François Bayrou, il candidato centrista al primo turno, aveva ottenuto il 9,1% dei consensi. Voterò per Hollande, ha detto ieri sera. Je ne veux pas voter blanc. Cela serait de l'indécision. E dans ces circostanze. Eccolo lì François Bayrou, che poi ha precisato: non darò indicazioni generali di voto ai miei elettori, che si esprimeranno secondo coscienza, ma tant'è, è un appoggio importante per Sarkozy. Allora, questo per quel che riguarda la Francia, ma dicevamo, al voto ci vanno anche altri paesi. Allora, io qui davanti a me ho il prima pagina del Sole 24 Ore di quest'oggi, che non solo alle elezioni ma anche alla crisi guarda proprio in chiave europea, tra proteste e disperazione, ecco l'Europa che fa i conti con la crisi, e si guarda alla Spagna, si guarda all'Italia, si guarda alla Grecia dove si andrà al voto. E allora io saluto da Atene Vittorio Darold, buongiorno. Buongiorno a voi. Dicevamo, anche Atene andrà al voto domenica, in che clima? Sì, in un clima di grande incertezza, perché i due grandi partiti che fino agli ultimi 20 anni si sono divisi il potere alternandosi, e sono il Partito Socialista, il PASOK e il Partito Conservatore di Neodemocrazia, questa volta rischiano di non essere vincitori, di non avere quindi un chiaro vincitore e soprattutto di dover coalizzarsi. Addirittura ci sono delle proiezioni che dicono che nemmeno la coalizione dei due grandi partiti, che una volta ottenevano l'80% dei voti, potrebbe raggiungere il 40%, che è il limite minimo per poter avere la maggioranza di 151 seggi su 300 di cui è composta l'Assemblea. C'è un grande frazionamento, i greci sono tentati addirittura dall'astensione, cinicamente sono ormai abbastanza disaffezionati alla politica che li ha portati sull'orlo del baratro e che li ha portati ad avere sacrifici molto molto duri, e tutto questo quindi potrebbe giocarsi sull'astensione, che però dovrebbe premiare partiti cosiddetti anti-austerity, partiti... Insomma, anche i greci di austerity non ne possono più. C'è un dato comune, che queste elezioni di domenica potrebbero far emergere molte novità in Europa, positive o negative, poi lo valuteremo, ma molte novità, sei d'accordo? Sì, assolutamente, cioè il piano di austerity senza crescita, perché qui la disoccupazione è del 22%, sta ormai raggiungendo i limiti di sopportazione, quindi la popolazione vuole avere qualcosa, uno sviluppo, vuole vedere qualcosa, cioè la luce dopo il tunnel. Quando arriveranno i risultati, Vittorio? Dunque, alle 19 si chiudono i seggi, che si aprono alle 7 di mattina, le proiezioni saranno immediate, alle 21.30 ora locale, quindi le 22.30 ora italiana, dovrebbero già esserci i risultati. E allora speriamo di averti con noi già lunedì, perché lunedì mattina i risultati almeno in Francia e in Grecia li avremo, e allora a quest'ora del mattino con Prima Edizione cercheremo già di raccontarvi la nuova faccia dell'Europa dopo questa tornata elettorale. Grazie a Vittorio Darold da Atene. Grazie a voi. Buona giornata, buon venerdì anche a voi, noi ci risentiamo tra poco con GR24 e poi lunedì mattina con Prima Edizione. Buon venerdì da Anna Migliorati.